Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Mie care eclettiche, mie care eclettici, siamo così arrivati alla chiusura della prima settimana di Eclettica. Nuova stagione, stagione numero 14, nuova sigla, nuova base, nuovi jingle. Ma è sempre Eclettica, sempre in compagnia di Giulio Caperdoni dal 1994 sulle frequenze di Rock FM e anche in questa stagione 2007-2008 a tenervi compagnia. Vi ricordo l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, vi ricordo l'indirizzo del sito di Rock FM www.radiorockfm.com e anche del nostro spazio myspace.com/eclettica. Stavo in ufficio, il contratto d'affitto era scaduto e McKelvey voleva ricorrere al tribunale per sfrattarmi. Era una giornata infernale e il condizionatore d'aria era rotto. Sul piano della scrivania stava camminando lentamente una mosca. Allungai un braccio, abbattei il palmo aperto della mano e la spedii all'altro mondo. Mentre mi pulivo la mano sulla gamba destra dei pantaloni, squillò il telefono. Alzai il ricevitore. «Ah, sì?» dissi. «Leggi Céline?» chiese una voce femminile. Era parecchio sexy. Da un po' di tempo ero solo. Secoli. «Céline?» risposi. «Voglio Céline», disse. «Devo averlo». Una voce tanto sexy mi eccitava, davvero. Questo era l'incipit di Pulp di Charles Bukowski. Should I stay? Should I call it a day? There's so much to say that's unspoken. In your way you've been true. All I can do, try to love you just as you are. Cause I'm never going to change a thing. No, I'll never ever change a thing. Try to love you just as you are. That look in your eyes, I know you despise me for not being stronger. But what can I do? What should I do? I've always loved you just as you are, and I've never tried to change a thing. Never tried to change a thing about you. I love you just as you are. My name is Lorraine. Lorraine Bates? Yeah. But you're so thin. Ever since I was a little girl, you are. Eclettica quest'oggi si è aperta con Comic Opera per quanto riguarda Robert Wyatt. La sua prima incisione per la Domino Records segue l'album del 2003 Cuckoo Land ed è un'opera, questa comic opera, molto lunga, suddivisa in tre atti. Lost in Noise è il primo, The Here and There è il secondo e Away with the Fairies è il terzo. Nel terzo la particolarità è che ci sono poesie e musiche di artisti come Federico García Lorca, come Carlos Puebla, ma soprattutto per noi italiani, con orgoglio, i CCCP. Infatti va a fare una cover dei CCCP. Robert Wyatt, che però noi ci siamo ascoltati con un estratto dal primo atto, Lost in Noise. L'estratto aveva per titolo Just As You Are, in un album in cui ci sono le collaborazioni anche di Brian Eno, Paul Weller e Phil Manzanera. Poi a seguire avrete probabilmente notato una qualità del suono non eccelsa, infatti si tratta di un pezzo che arriva da MySpace, non esiste al momento nessuna uscita discografica, è una vera crescita garantita dalla rete, a differenza di altri episodi del passato in cui erano fini operazioni marketing che fintamente venivano fatte passare per MySpace. Black Kids è il nome della formazione, vengono da Jacksonville in Florida. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you è invece il titolo del brano che ci siamo ascoltati. Ci si sposta in Canada, anche se sospetto origini belghe per l'artista in questione, che ha deciso di adottare lo pseudonimo di Vulve, visto che a volte dal vivo si cimenta anche in fiammingo. Invece su disco incide solo in francese, dice che sarà l'unica lingua che utilizzerà perché altrimenti non si sentirebbe onesta. Incide per la K Records e ce l'ascoltiamo con Drapeau Blanc. Mi sembra, viste tanti nomi nuovi, tanti nomi strani, proprio il caso di ricordare dell'esistenza delle playlist di Eclettica con l'elenco di tutti i brani che vi ascoltate in trasmissione. La trovate sul sito myspace.com/eclettica, ma la potete ricevere anche direttamente nella vostra casella di posta se vi iscrivete alla lista nera scrivendo a giulio@radiorockfm.com. Yeah. Avevo 50 anni e non andavo a letto con una donna da 4. Non avevo amiche. Guardavo le donne per strada o dovunque le vedessi, ma le guardavo senza desiderio e con un senso di inutilità. Mi masturbavo regolarmente, ma l'idea di avere rapporti con una donna, anche non sessuali, era una cosa che non riuscivo nemmeno a immaginare. Avevo una figlia di 6 anni, nata illegittima. Viveva con la madre e io pagavo per il suo mantenimento. Ero stato sposato parecchi anni prima, quando avevo 35 anni. Quel matrimonio era durato 2 anni e mezzo. Mia moglie aveva chiesto il divorzio. Ero stato innamorato una volta sola. Lei era morta di alcolismo acuto. Mia moglie aveva 12 anni meno di me. Credo che anche lei ormai sia morta, ma non ne sono sicuro. Mi ha scritto lunghe lettere a Natale per 6 anni, dopo il divorzio. Non le ho mai risposto. Questo era l'incipit di Donne, di Charles Bukowski. Chest? I've never seen purple underwear before, Calvin. Calvin, why do you keep calling me Calvin? Well, that is your name, isn't it? Calvin Klein? It's written all over your underwear. Go! Oggi non vi ho ancora rammentato dell'esistenza del podcasting, della possibilità di ascoltare Eclettica non nell'orario prefissato all'interno del palinsesto di Rock FM, ma nel momento in cui preferite, nel luogo in cui preferite, con il supporto che preferite. Tutti i dettagli su myspace.com/eclettica oppure su www.radiorockfm.com. Altrimenti sono a disposizione anche per lezioni private, per così dire, nel caso abbiate difficoltà, a giulio@radiorockfm.com. Ci siamo appena ascoltati un'interessante band newyorkese all'esordio, c'è molto Oasis nel loro stile, ma è anche un pezzo che prende quello che ci siamo ascoltati. Loro si chiamano The Go Station e il pezzo che si è chiuso qualche secondo fa era All Together Now. In precedenza invece un'ulteriore conferma di quanto siano bravi a fare del buon indie pop gli svedesi con The State of Samuel, e questo è il nome del trio che ci ha fatto ascoltare Square Roots. E si chiude con un altro esordio statunitense, ci spostiamo a Seattle, ma anche in questo caso come con i The Go Station c'è molta Inghilterra nelle atmosfere musicali della band che ci andiamo ad ascoltare. Loro si chiamano Siberian With Me, è il titolo del loro esordio, Sonic Boom è l'etichetta, e Belgian Beer and Catholic Girls è il titolo del pezzo.